Edoardo stava tornando a casa quando sentì un debole guaito. Guardò dietro un cespuglio e trovò un piccolo cagnolino spaventato. Lo prese in braccio e cercò il suo padrone. Dopo aver chiesto ai passanti, una bambina corse verso di lui gridando: «È il mio cucciolo! Grazie!» Edoardo sorrise felice, sapendo di aver aiutato un amico a ritrovare la sua casa.